Effetto Mondo. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Alessio, bentornato. Grazie e a te ben ritrovata. Dove ci porti in apertura? Ma negli Stati Uniti, perché vabbè, stamattina ero molto curiosa di vedere questo primo dibattito democratico al quale ha partecipato Michael Bloomberg. Il prossimo appuntamento è sabato con il caucus, cioè le primarie del Nevada. E tutti si aspettavano che insomma facesse faville e non è stato esattamente così. Quindi la foto dei centrale dei quattro podi. C'erano Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg e Biden, e è la foto che troviamo un po' su tutti i giornali americani. Direi che sono tutti concordi nel dire che appunto Bloomberg ha parecchio sofferto gli attacchi dei suoi. Gli altri sono un po' più allenati forse anche all'arena politica. Sentivo un interessante commento della CNN, ma ci sono anche editoriali sulla stessa linea, che è proprio probabilmente ha perso l'abitudine. Ai dibattiti aveva partecipato naturalmente prima delle elezioni a sindaco di New York, però adesso sembrava proprio, poi insomma alla sua età. Quanti anni c'ha Bloomberg? 78. Quindi, però sentiamo questa parte dove Elizabeth Warren lo ha duramente attaccato, cercando di fargli dire quanti patteggiamenti con accordo di non disclosure, cioè che deve finire tutto lì, nessuno può più dire niente, ha firmato per se stesso o per altre persone, altri suoi dipendenti, per accuse di molesti sessuali. He has gotten some number of women, dozens, who knows, to sign non-disclosure agreements, both for sexual harassment. Ecco, lei ha premuto molto su questo, lo ha proprio incalzato dicendo: dici quanti sono questi accordi? Lui alcuni, e continuava. Io ne parlavamo prima, insomma, non so se questa è la chiave per togliere consensi, ammesso che li abbia o che li potrebbe avere nei prossimi mesi Bloomberg. C'è più il tema economico, lo hanno accusato, c'è stato tu hai tante case, no? Tu ne hai di più, tra lui e Sanders sono volati gli stracci. Naturalmente ricorda le situazioni che abbiamo visto in altri paesi, anche nel nostro. Vedremo se alla fine lui ha già detto, Bloomberg, una cosa interessante che sottolinea il New York Times, che se per caso non fosse scelto come candidato per sfidare Trump, metterà tutto questo enorme patrimonio che ha al servizio di chiunque sia il candidato, perché l'importante è battere Trump. E questa è una buona notizia per chiunque sia il candidato, se non dovesse essere lui, perché il patrimonio sicuramente non gli manca. Fissiamoci una data, perché c'è quando è la data? Sabato è il caucus, e poi il 3 di marzo ci sono invece, c'è il Big Tuesday, dove si vota marzo, in quegli stati molto importanti. Esatto, e comunque sì, sono tante primarie nello stesso giorno, quindi comincia ad avere un'indicazione abbastanza importante. Purtroppo la mia Amy e il nostro Buttigieg ieri non hanno avuto momenti di gloria. No, nessuno. Vabbè, quindi Biden è spento come sempre, però qui c'è l'altro problema, anche questo lo conosciamo molto bene, che chi rappresenta diciamo il partito è Joe Biden, però gli altri sono tutti un po' degli outsider. Non vorrei che suonasse offensivo, però sono tre vecchietti gagliardi che Biden, Sanders e Bloomberg, stamattina sentivo Guido Crosetto da Simone Spezia a 24 Mattino, che diceva ci dovrebbe far riflettere questa cosa, che vediamo gli Stati Uniti come il paese dell'innovazione, dove invece, nella Silicon Valley si diventa miliardari a 25 anni, e poi i tre candidati alla presidenza sono tutti vicino agli 80 anni. Va bene, Gran Bretagna, credo ci sono notizie sui giornali, che notizie diciamo echi un po' di questo annuncio che è arrivato ieri, non a sorpresa, ma insomma il piano per l'immigrazione è bello tosto. Sì, il Guardian per esempio dice è un modo questo di sbandierare questo piano, che sappiamo poi entrerà in vigore soltanto tra un anno, per coprire altri problemi. Per esempio, dice il Guardian, il fatto che una casa su 10 nel Regno Unito, tema molto di attualità visto le recenti inondazioni, in realtà è a rischio di inondazione se ci sono questi eventi eccezionali. Poi si torna sulla questione di questo piano, che però ricordiamolo, sì, sono stati dati questi numeri, punti, bisogna arrivare a 70, però tutti i problemi irrisolti, quello che dicevamo ieri, ci saranno poi dei britannici disposti a coprire quei lavori per poco qualificati per i quali non sarà permesso entrare nel Regno Unito, si vedrà. Insomma, il Times a sua volta, come se il Times sostiene da sempre Boris Johnson, come se non volesse appunto per dovere di cronaca già vedere i problemi di questo piano, parla invece di Harry e Meghan che hanno avuto, cioè continua la telenovela per sapere quanto gli resterà dei privilegi che avevano. Aggiornaci ogni tanto su questa telenovela, perché in effetti abbiamo parlato tanto, poi che sparisca così dai radar un po' mi dispiace. La notizia di oggi è almeno che, si ride un po', no? Che Harry e Meghan non avranno più la loro base a Buckingham Palace, cioè quando torneranno nel Regno Unito dovranno trovarsi un albergo, non credo che abbiamo bisogno di un albergo, però non a Buckingham Palace. Il Daily Mail torna sulla questione, sì. Brexit, dice, tra 6 settimane avremo i dettagli esattamente di dove, quando quanto avranno, comunque quando se ne andranno definitivamamente dal Regno Unito e dove eventualmente vivranno, se terranno la loro casa ristrutturata con i soldi dei contribuenti. Allora Giulia, Germania sui giornali credo che ci sia poco, hai trovato qualcosa? Perché è successo ieri sera tardi. Nel senso, è successo ieri alle 10 e i giornali tedeschi ormai chiudono da qualche anno verso le 7 di sera, così come i negozi chiudono alle 6 di sera, a volte anche alle 5 e mezza, quindi i tedeschi vanno a letto presto. I giornali ecco perché non sono così forti poi non ribattono, quindi diciamo che sulle prime pagine dei giornali ci sono ancora soprattutto le notizie politiche con questa ricerca disperata di un successore per la Kramp-Karrenbauer. Il Tagesspiegel ricorda Karl Lagerfeld, morto esattamente un anno fa, il grande stilista che era direttore creativo di Chanel e anche di Fendi quando è scomparso. E poi invece però ho preso un piccolo video, perché naturalmente invece i siti dei vari quotidiani stanno seguendo la vicenda minuto per minuto, c'è un piccolo audio di uno dei testimoni di questa sparatoria. Tra l'altro segnalo che, come dicevi tu, in Germania c'è molto allarme, cioè non nessuno si illude che una persona che va in due bar chiaramente frequentati da persone di religione musulmana, di fede musulmana, sia andato lì perché è un pazzo e avrebbe potuto andare altrove. No, è andato lì perché quello era quello che lui sentiva come la sua missione, colpire persone di fede musulmana. Sentiamo questo breve audio. Also gegen 22 Uhr, circa gegen 22 Uhr, wo diese Qui occorre subito l'intervento, sì, perché non si capisce nulla. Erano circa le 10 di sera, sono sceso con i miei bambini piccoli per andare a trovare i miei genitori che vivono lì. La cosa che appare chiara da tutte queste testimonianze raccolte è che quello è un quartiere dove non c'erano soltanto i due bar dove si fuma il narghilè. Questa persona, per esempio, parla un tedesco chiaramente da persona che ha imparato il tedesco come seconda lingua, quindi è un quartiere dove c'è un'altissima percentuale di musulmani, quindi dovunque fosse andato in realtà avrebbe colpito qualcuno di fede musulmana. Naturalmente adesso c'è l'antiterrorismo che è subito sceso in campo, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, come dicevi tu, le prime dichiarazioni della cancelliera Merkel. Grazie Giulia Crivelli, è tutto anche per oggi e per questa puntata, ci risentiamo domani con l'ultima della settimana per quanto riguarda Effetto Giorno, grazie a Valeria Bernardi, regia, Jacopo De Franchi in redazione, noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14, ciao, buona giornata da Alessio Maurizi.